get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera, buonasera a tutte. Quella che sta per iniziare è la 277esima trasmissione del coordinamento lesbiche romane attraverso i liberi microfoni di Radio Onda Rossa all'interno del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87,9 MHz. Oggi qui in radio siamo Caterina, che vi sta parlando, Lucilla e Rosina. E faremo un collegamento telefonico perché abbiamo previsto di fare un'intervista a un ospite veramente molto speciale per noi. E ci collegheremo con la regista dello spettacolo che verrà dato questo venerdì 15 alla Casa Internazionale delle Donne in un'iniziativa del Kesbilè. E stiamo parlando di Elena Rossi, poeta e drammaturga, che ci parlerà del suo ultimo lavoro, che si intitola Punti di vista, spunti di svista. E siccome dobbiamo fare un approccio tecnico con il collegamento telefonico, io direi a questo punto di mandare un brano musicale. Chiedo a Rosina di leggerne il titolo, perché io non mi assumo la responsabilità di quello che legge. Certamente. Allora, il brano si chiama Keeping Out of Mischief Now, di Dina Washington, dall'album Back to the Blues. Senti che bella pronuncia? Ah, meravigliosa. Allora, diamo tempo a Caterina di fare il collegamento tecnico. Ok, anche se il brano dura 2 minuti, forse non ce la facciamo, però va bene. Ce la faremo. Va bene. I stay home by my radio, but I'm satisfied. All my flirting days are gone. On the level from now on. Don't go for any excitement now. Books are my best company. All my opinions have changed somehow. Old-fashioned as can be. When you really learn to care, there's a thrill in solitaire. Keeping out of mischief now. Really am in love and how. I'm through playing with fire. It's you whom I desire. All the world can plainly see. You're the only one for me. I've told them in advance, they can't break up our romance. Living up to every bar, I'm keeping out of mischief now. Allora, se abbiamo fatto tutto bene, dovremmo sentire anche Elena. Ci sei? Sì, ci sono. Vai. Ciao Elena, buonasera. Benvenuta. Ciao Rosilla. C'è anche Rosina, che ti ha dato ciao, il benvenuto. Ciao Rosina. Ciao Eccoci. Elena. Allora, intanto noi ci vedremo venerdì. e venerdì prossimo. Ma siamo in diretta ora? Come? Sì, sei già in diretta. Ah, ecco. Perfetta. E venerdì prossimo tu presenterai un tuo pezzo teatrale. Noi ti abbiamo visto in altre occasioni, siamo delle tue fan e non lo neghiamo. Questa tua veste ci piace. Ecco. Allora, cominceremo con una prima domanda. Sì, spero di essere preparata. Sì, io sono preparatissima, vai tranquilla. Sto leggendo e quindi... Allora, quando hai cominciato a scrivere per il teatro? Dunque, guarda, io ho cominciato nel 1995, praticamente grazie a una separazione. Ah. Vuoi che ti racconti com'è andata? Beh, sarà stata tanto, come anche se mi dici di no, allegra. Se è attinente allora, lo spettacolo, forse. Sì, abbastanza. Dunque, nel lontano 1995, sarò breve. Avevo parecchio tempo libero perché appunto la mia fidanzata ed io ci eravamo lasciate, quindi non sapevo cosa fare. Secondo te cosa si fa quando ci si lascia? Beh, si diventa creative. Ho scritto un testo teatrale appunto che allora... si chiamava Pianeta L. Era praticamente un'opera di fantascienza, parlava di questo pianeta L, un futuro lontano nello spazio e nel tempo, un mondo completamente lesbico, no? Con lesbiche tutte chirurghe, neurobiologhe, direttrici di banca col satellitare e l'autista, è presente, no? Uguale sì, a ora. Assolutamente sì. Sì, sì. Mi ricordo di un pianeta l'inizio. H. Sì, no, non penso c'entrasse molto. No, però me l'hai fatto venire comunque in mente. Molto bene, e quindi quella è stata l'occasione, sì, il tempo sì. E la verve creativa che ovviamente dà il dolore dell'ascito. Senti, ma ti posso fare io una domanda in diretta, ma tu scrivi soltanto quando te lasciano o poi hai cambiato modalità? No, sì, praticamente io scrivo... sì, quando un rapporto d'amore finisce, cioè un desiderio ma anche proprio una necessità, perché mi serve, cioè trasformare i sentimenti in parole è qualcosa che mi permette di avere uno sguardo distaccato, capito, su quello che magari mi ha fatto soffrire. Certo. E quindi scrivendo si produce una liberazione, una specie di azione catartica, no? Anche terapeutica. In un certo senso. Non sappiamo se augurarti di scrivere di più o di scrivere di meno allora a questo punto. No, infatti io dico sempre grazie a tutte di avermi lasciata. perché per noi almeno, per noi che fruiamo del tuo spirito creativo, diciamo che è una bella cosa, ecco, perché ci divertiamo molto. Sei sube del dolore. Senti, ma dopo quanto tempo sei riuscita a rappresentare uno spettacolo e tuo, quindi a mettere quindi in scena. Pubblico, in scena, quello che tu avevi prodotto e in quali situazioni? Sì, dunque, infatti, molto bene, perché praticamente avevo scritto questo testo Pianeta L, ma ovviamente un'opera teatrale va anche rappresentata, no? E qui certo. È nato immediatamente un piccolo problema, cioè per rappresentarlo ci volevano circa una decina di attrici. Ecco. E quindi mi sono messa a cercare lesbiche disponibili a recitare e come puoi immaginare nella amena cittadina in cui vivo, Pisa, ce n'erano a frotte. Certo, tutte quante lì, disponibili. Come un vero casting, cioè avevi la fila fuori la porta. Brava, ho cominciato proprio a fare tipo i provini all'americana a casa mia, no? Cioè avevo una casa di 20 metri quadri a quel tempo, col salotto gremito, lesbiche ovunque che mangiavano, bevevano, soprattutto si stravaccavano sul divano, così. E poi è nato un altro problema, chissà perché volevano fare tutte la parte delle protagoniste, Lavinia e Linda, quindi tutto il tempo a litigare, no Lavinia la voglio fare io, no Linda la faccio io, ecco. E insomma il progetto è praticamente fallito miseramente ancora prima di cominciare, cioè non c'è stato niente da fare. Quindi ce l'hai ancora nel cassetto quella prima opera? No, ecco, brava, perché poi quel testo diciamo è stato messo nel cassetto, ma l'ho ritirato fuori nel 2004 perché mi hanno invitato a tenere un seminario di teatro al campo lesbico di Agape. Uh-huh. E lì ho avuto a disposizione 10 donne e lo abbiamo messo in scena. È stata un'esperienza veramente molto, molto divertente. Ecco, quindi allora sei riuscita, hai avuto il luogo anche dove poterlo, esatto, fare. Sì, cioè non ho risposto alla tua domanda, nel senso che ovviamente anche prima del 2004 ho messo in scena qualcosa, altrimenti mi potevo sparare. Cioè dopo questi provini, insomma, fallimentari per Pianeta L, io ero un po' depressa, ma c'è stato un giro di boa, perché fra le donne che venivano a casa mia, indovina chi c'era, che si stravaccava più delle altre sul divano. Una delle tue preferite, indovina o la tua un po'? La tua attrice preferita in assoluto? Una che comincia con A e finisce con Angela? Okay. È proprio lei, Angela Soldani, che poi è diventata appunto l'attrice e collaboratrice di tutte le mie opere. Grande. E quindi Angela, che ha visto la mia profonda delusione per il fallimento di Pianeta L, mi ha detto: ma perché non scrivi un monologo così poi te lo recito io? Ecco, e lei quindi pensava, no, di dire una cosa carina così, tanto per consolarmi, non, certo, è che si era proprio resa conto. Infatti, detto fatto, nel giro di pochissimo tempo ho scritto L'Annuncio, che è stato il mio primo monologo, bellino, no? Bellino, molto, proprio tanto. Esatto, che parlava di una donna che perde se stessa fra le varie difficoltà della vita e metteva un annuncio, un improbabile annuncio sul giornale nel tentativo appunto di ritrovarsi. E così, e niente, scritto, ho fatto una festa a casa mia, sempre nella casa di 20 metri quadri, per la premiere, e guarda un po', fra le invitate c'erano anche le organizzatrici del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria di Bologna, con cui io ho collaborato per tanti anni, Marina e Cristina, che hanno visto quest'opera e hanno sentenziato: lo vogliamo all'inaugurazione di Immaginaria l'anno prossimo. E quindi la prima vera rappresentazione è stata Immaginaria nel 96. E diciamo che il numero delle donne che hanno assistito a quello spettacolo era un po' più ampio di quello che c'erano, sì, in 20 metri, sì, quadri di casa tua. Donne, cioè, infatti, sì, me lo ricordo, sì, perché era una delle 300, però immagino l'emozione. Esatto, è stato esatto, un gran successo. Sì, infatti anch'io c'ero e me lo ricordo molto bene, e poi l'ho rivisto anche perché l'avete portato anche alla Casa Internazionale, sì, delle Donne, certo, l'ho rivisto anche lì. E diciamo che non mi ha stancato neanche la seconda volta, pensa un po' tu. Io purtroppo non c'ero, che c'avevo una riunione di condominio quella sera, mi dispiace. Annaggia, te lo faremo giusto per te. Lo dovremmo rifare tutto per me. Senti, certo, Elena, ma oltre, diciamo, a tutte le tue fidanzate che appunto ti hanno lasciato e che quindi ti hanno in qualche modo ispirata a scrivere le tue cose, e oltre ad Angela, che forse non so se è semplicemente un interprete per te, ma è anche magari una musa ispiratrice, c'è qualcuno appunto che ti ispira oltre a tutte queste signore che appunto ti hanno in qualche modo spinto a produrre le tue opere? Ma una donna muse, qui? Le muse... sono parecchie, sono 9, no? Se volete ve le dico anche. Dicele tutte. Dacci questo smacco. Fai vedere a Lucilla dal che cosa significa aver studiato al liceo classico. Cioè, guarda, no, dici bene, Rosina, le muse ispiratrici sono state appunto le mie fidanzate o, certo, ex fidanzate, come per dir meglio. Poi ho avuto anche dei musi ispiratori. Mm-hmm. Perché a un certo punto ho cambiato casa, vivevo all'ultimo piano e sul tetto c'era una colonia di piccioni che ciubavano a tutte le ore del giorno e della notte soprattutto. E io, quando di notte non riesco a dormire, cosa faccio? Scrivo. Ho provato a cacciare i piccioni con la fionda, ma siccome non ho una grande mira, un'impresa titanica, ho continuato a scrivere. Grazie anche ai piccioni, capisci? Ho capito, perfetto. Quindi diciamo che c'è qualche tratto che unisce le lesbiche e i piccioni. Ora, questa potrebbe essere anche tema di una tavola rotonda, oppure comunque di qualcosa di molto teorico. Possiamo stare a fare un approfondimento, ma prossimamente. Ora torniamo a noi. Vabbè. Senti, ma e un'altra, l'hai praticamente detto, però a questo punto ti vogliamo sbugiardare un po' di più, se ce lo consenti. Quanto c'è di autobiografico in quello che scrivi? E quanto è importante per te scrivere di lesbiche, sulle lesbiche e anche un po' per le lesbiche? Sì, dunque, è vero, i miei testi, diciamo, sono autobiografici e non, nel senso che partono da esperienze lesbiche, che non sono per forza personali, no? Certo. E comunque poi si allontanano dalla realtà attraverso lo strumento dell'ironia. Sì. Cioè, io scrivo sempre e unicamente partendo dalla mia identità lesbica. Il mio percorso politico è stato all'interno del movimento lesbico, quindi scrivo di lesbiche e per le lesbiche. È anche un atto di amore per la comunità questo, no? Io trovo che comunque ci siano troppo poche persone che lo fanno. E poi credo anche molto nella specificità della nostra identità lesbica. Certo. Cioè, secondo me si può crescere confrontandosi con le proprie simili. Certo. Infatti tante volte dopo gli spettacoli le donne vengono da me e mi dicono che si sono riconosciute in questo o quell'altro personaggio dell'opera, capito? Certo, ma questo va da sé, nel senso che io lo capisco profondamente, e soprattutto cioè, le persone come te che hanno questa capacità creativa e questa grande ricchezza nel restituire con l'ironia, no, il nostro essere, il nostro poterci rappresentare, quindi poterci riconoscere, per la collettività, per la comunità fa un grande servizio, perché non abbiamo altro, no? Esatto, il mondo è eterosessuale, esatto. I modelli sono quelli, e almeno ci possiamo riconoscere invece in altro, che è quello che ci rappresenta, insomma. Esatto. E per questo ti ringrazio, perché per esempio io ho visto alcune cose tue e in ogni situazione mi sono tanto divertita, ma anche tanto riconosciuta in certe modalità, e con quel sorriso, quello star bene dentro, insomma, no? Che ti restituisce, come hai detto tu, identità, no? Questa è molto bello, insomma. Senti, io manderei un pezzo musicale, sì. E poi tu non attaccare, naturalmente. Assolutamente non attaccare. No, e poi siamo qui insieme, va bene? Ok, io bene. Volevo far ascoltare Ethel Smith con il brano Tico Tico. Adesso se riesco a farlo partire lo ascoltate, eh? Thank you. E allora, rieccoci qui, Elena, ci sei sempre? Sì, certo. Perfetto, siamo state prese tutte quante dal demone della danza, mentre per fortuna che in radio non si vede. Senti, allora, tornando a noi, Elena, venerdì, prima ha anticipato Lucilla, tu presenterai al Kesbirè questo tuo nuovo spettacolo, Punti di Vista, Punti di Svista, e siccome ci sono all'ascolto molte delle compagne che verranno appunto a vederti lavorare venerdì, dici magari qualcosa, insomma, come ti è nata l'idea per questo tuo nuovo lavoro, se ci racconti dunque, qualcosa dello spettacolo. Un piccolo anteprima. Certo, sì, un piccolo trailer. Certo. Dunque, sì, punti di vista, spunti di svista. Mi interessava lavorare sul motivo per cui quando si racconta una storia, no? Ognuna di noi la racconta in modo diverso. Faccio un esempio. Dopo la classica separazione, ognuna ha le sue idee su come sono andate le cose. Certo. È presente, la tua ex dice che è colpa tua, tu dici che è colpa della tua ex, ti è mai successo? Sì, lo sento vagamente familiare come discorso. Vagamente, eh? Vagamente, vero? E allora è andata così, ho inventato una storia molto semplice, una lite fra due donne motivata dalla gelosia, niente di più comune. Poi ho ambientato la vicenda in un altro secolo, cioè nella Parigi degli anni 20, e ho messo come protagoniste alcune donne famose da me molto amate, cioè la scrittrice Natalie Clifford Barney e la sua compagna, la pittrice Romaine Brooks, che sono state insieme circa 50 anni, pur avendo entrambe le loro avventure, questo va detto. E niente, quindi ho provato a raccontare la storia da vari punti di vista, offrendo prospettive sempre diverse che inevitabilmente poi alla fine finiscono per stravolgere tutto il racconto, insomma. Quindi assisteremo a una, diciamo, una rappresentazione degli anni 20 e una serata anni 20. Anni 20, infatti, e visto che è ambientato negli anni 20 e visto anche che siamo nei pressi del carnevale, invitiamo tutte ovviamente a venire numerose, magari anche a travestirsi, a mettersi un qualcosa per richiami gli anni 20. Cioè, di attinente. Lucilla viene benissimo in costume. Sì, sì. Un spettacolo. Beh, vabbè, questo lo dice... Una piuma. Lo dice perché ormai... Mi conosce Rosina e quindi sa come che transformer che sono. No, ma poi la cosa che a me entusiasma di tutta questa storia non è tanto il valore artistico, non è tanto l'ambientazione, è finalmente poter dar credito al pettegolezzo. Questa, esatto. Finalmente anche noi. Per il quale Caterina ha una naturale propensione. Certo. Non fa altro che evidenziare in ogni sua azione, in ogni una, sua parola. Tanto per dirla, una mia ex, perché qui parliamo di ex, ogni tanto mi chiedeva informazione su qualche donna lesbica, eccetera, e mi diceva: attiva la tua anagrafe lesbica. Esatto. Infatti non so se avete visto che nel volantino pubblicitario ho fatto un lesbian chart, esatto, tipo quello di The L World, però del XX secolo, mettendo al centro appunto Natalie Clifford Barney e Romaine Brooks, è venuto fuori che si sono date parecchio da fare. Eh sì, beate loro, avevano un circolo ben avviato. Sì. Bene, allora, quindi, intanto noi saremo numerose, me lo auguro, per venerdì. E continuando su questo filone, insomma, quali canali utilizzi per far conoscere e circolare i tuoi spettacoli, intanto? Dunque, canali televisivi, Rai 3, no, canale di Suez, non lo so, non quelli. Beh, dunque, qui insomma il discorso è diverso, nel senso che ovviamente quando abbiamo cominciato alla fine degli anni 90 era abbastanza facile, dopo appunto quella prima rappresentazione dell'annuncio nel 96 a Immaginaria, ci hanno chiamato ovunque, a Verona, a Roma, a Brescia, a Milano, Padova, anche a Siena, a Firenze, ad Agape, insomma i canali politici lesbici degli anni 90. Ora mi sembra che sia un pochino più difficile, ecco, servirsi di questo tipo di canale, però io cerco sempre di utilizzare questo. Cioè, tipo, se c'è un evento lesbico in Italia, come per esempio nel 2010, no? Le 5 giornate lesbiche di Roma, certo. C'è un mio spettacolo teatrale. Certo. Forza, ero io la responsabile del settore teatro. Ti mi dà una posizione avvantaggiata. Quindi sì, infatti. No, per il resto sono un pochino, come dire, antiquata. Non ho un sito, non ho un blog, non sono su Facebook. Non sei scadata, anzi, se insomma, per caso c'è qualcuna che ascolta la trasmissione e prova un po' di simpatia, avesse voglia di darmi una mano a costruire un sito, insomma, io sarei felice, ne sarei per sempre grata. Guarda, ti devo comunicare che purtroppo parli con le tre donne meno tecnologiche dell'emisfero. No, ma infatti io non ho parlato a voi. Ho detto se c'è qualcuna che ascolta. Grande ascoltatrice. Io spero che potremo trovare qualcuna. Qui è improbabile. Grazie. Dunque, senti, Elena, c'è già qualcosa che hai in mente, un nuovo spettacolo? Stai lavorando su qualcosa di nuovo, oltre appunto a portare avanti punti di vista, spunti di vista? Ma senti, ancora no, perché appunto stiamo portando in giro questo, che è l'ultimo lavoro. Venerdì siamo a Roma, poi andiamo a Torino alla Galleria delle Donne, ancora non so la data esatta, ma insomma presto. Sì. E quindi stiamo ancora lavorando su questo, perché cioè il teatro è bello proprio perché ogni rappresentazione è diversa, no? L'opera cresce, cambia, si modifica, si approfondisce anche man mano che la provi e che la rappresenti, e quindi è una specie di continuo work in progress, non è mai finito davvero, e questo è vero soprattutto per punti di vista, spunti di svista, appunto, perché no, quando lo vedrete scoprirete perché, diciamo. Non vediamo l'ora. Tra l'altro devo dirti che un po' esula ovviamente dal tuo spettacolo, però abbiamo avuto il piacere invece di vedere sia te che Angela in questa in questo pilot di The Lell World insieme a Carlina, e ci siamo veramente molto molto divertite, lo ricordiamo, è un progetto di Cristina Sirca Capone. Si chiama Dell'El World, aiutami se ho tenuto fuori qualcuna, e lei cura la regia. Insomma, si tratta appunto di un progetto molto interessante, un pilot che appunto spera in qualche modo di avere un seguito, e che vorrebbe in qualche modo essere condiviso su questa piattaforma di produzioni al basso. Esatto. Lo dico perché se qualcuna insomma fosse interessata lo può andare a vedere appunto in rete e cercare anche di comprare delle quote. Sì. Lo dico così en passant, però insomma sì. Mi piaceva quella perché la scena tra me e Angela era la sì. più bella scena di sesso, la più bella scena di sesso lesbico. Devo dire che ci siamo veramente molto divertite, e quindi aspettiamo con ansia il seguito. Sì, le altre puntate le vorremmo vedere, perché questa sì. prima puntata è stato uno spuntino, cioè, e ci è piaciuto. Uno spuntino di vista, ci è piaciuto è molto. Vero. Soprattutto a Lucilla sono piaciute molto le cozze. Perché immagino, sì. Senti, io so che tu scrivi anche poesie. E non lo puoi negare qui pubblicamente, e quindi no, non lo nego. Negherai. Però ti volevamo chiedere se c'è un legame tra teatro e poesia, almeno per quello che ti riguarda, per la tua esperienza. Sì, ecco, appunto perché ho scritto questa una raccolta di poesie che si intitolano Rime Tempestose. Rime Tempestose, meraviglioso. E che sono state lette in vari recital lesbici, anche questi un po' in tutta Italia. Un legame, sì, un legame c'è sicuramente, perché le poesie, forse anzi ancora più che il teatro, permettono, no, di esprimere le proprie emozioni in parole. A quel punto è più un'ironia avvenata di malinconia, forse. Sì. La differenza è che con il teatro è questione di costruire personaggi, storie con un ritmo più ampio, invece le poesie ovviamente hanno un respiro più breve, più concentrato. Poi appunto anche delle poesie, praticamente abbiamo fatto reading e non sono mai state pubblicate, nemmeno queste. Del resto forse non sai che ho scritto anche un romanzo lesbico. No, questo non lo sappiamo. Questo ironico. Non è stato mai pubblicato e che praticamente hanno letto in tutto 4 persone. Poi ho scritto anche una sceneggiatura cinematografica mai realizzata. Quindi diciamo che mi dedico a generi letterari diversi e sono tutti accomunati dal fatto di essere letteratura orale. Ecco. Guarda, noi possiamo ipotizzare una cosa, possiamo fare una proposta a te. Se riesci a mettere il romanzo lesbico, farlo pubblicare, noi ti garantiamo un battage pubblicitario notevole, una presentazione romana. Ecco, ci prenotiamo. Per un istante ho pensato che Caterina si offrisse di mettersi al ciclostile, mi preoccupavo un po'. Anch'io ciclostile, sì, l'ho fatto per tanti anni, ho ancora la manovella che va in automatico ogni volta che ne vedo uno di quei macchinari, però se veramente mi sono tremati i polsi, devo dirti la verità. Vabbè, vedremo se riesco a pubblicarlo non con il ciclo stile. Ecco, appunto. Vabbè, dai, facciamo una cosa un pochettino più moderna. Sì. E allora, senti, io direi forse abbiamo ancora un pezzo musicale. Sì, abbiamo un'altra canzone delle Pink Martini con Sympathique. Questa è la colonna sonora dello spettacolo, poi. Esatto. Allora, è un'anteprima allo spettacolo, perché diciamolo che insomma queste musiche le hai scelte tu, appunto. In onore degli anni 20. In onore degli anni 20. Quindi ci ascoltiamo Pink Martini, Sympathique, e poi torniamo in diretta. Benissimo. Forme d'une cage, le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour, un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend. Thank you. rieccoci qui, bellissimo, bellissimo questo pezzo. Lucilla e Caterina hanno ballato con un boa di piuma di struzzo, per cui devo dire che... Elena, ci sei sempre? Sono già pronte per venerdì. Sono già pronte per venerdì. Noi siamo già pronte per venerdì. Sono già andate, sì, più che altro. Sì, Elena, adesso ti facciamo una proposta indecente, sì, e la sentirai, sì, da The Voice, ecco, la vera voce della radio. Di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, e cioè da Rosina, che ha questa voce profonda. Sono molto spiritose. Allora, Elena, siccome il tempo è tiranno e noi siamo purtroppo in chiusura di trasmissione, ti diamo, sì, un minuto, 50 secondi, quello che vuoi tu. Raccontaci, dici perché questo spettacolo deve essere visto, invita le compagne a venire e dici perché è importante che vengano. Perché si divertiranno tantissimo. E questa è una certezza. Eh sì. Ha già consumato tutto il minuto, basta. Va bene così. Noi aggiungiamo allora, non solo vi divertirete e ci divertiremo insieme, e vedremo due attrici notevoli, perché io ho avuto un assaggio un po' di tempo fa di questo spettacolo, e non solo questo, ma avremo modo di rivederci nel nostro piccolo grande mondo quando appunto ci si separa oppure insomma si litiga, e i parteggiamenti del caso. Che ne dici? Io lo sai che ormai ho elettrificato tutto il perimetro della mia casa, e la prima che si avvicina gli sparo come una poiana, per cui non c'è problema, non mi lascerà. Vabbè, più potresti nessuna. Mettere a frutto questa cosa e scrivere anche tu qualcosa in fondo, no? No, che diamine. Io e Rosina adesso, ovvio, siccome siamo sfidanzate tutte e due e accasciate, abbiamo deciso che sulla scorta dei consigli che ci hai dato scriveremo un pezzo a quattro mani. Brave. Non sappiamo di dirti quando, però lo faremo. Anche in questo, benissimo, purtroppo mi tocca sopportarla. Bene, Elena, sì, senti, noi, sì, ti ringraziamo veramente tanto. Grazie. Ti aspettiamo per venerdì al Chesbilea, la nostra mattonella, sì, lesbica, come la chiamiamo. E benissimo, quindi ridiamo l'appuntamento a tutte le compagne. Mi raccomando, venerdì al Chesbilea a Roma, venite tutte. Venite copione e copiose, come si dice. Copione, copiose, vestite da anni 20. Ok, tutte con la piuma di struzzo, Lucilla col boa perché, sì, è più... Sono più grande. Perché è più anziana. Esatto. E Rosina in frac. Naturalmente. Certo. Io e la mia voce in frac, tutte e due. Sì. Elena, grazie davvero tanto, ti aspettiamo. Grazie. Ti aspettiamo. Un bacio venerdì. A tutte. Un bacio a te. Ciao. Ciao. Ciao. Allora, siamo sempre qui e vi ricordiamo che siete state all'ascolto di Una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, che è la trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 21:15 tutti i martedì, i martedì alterni, mentre il martedì femminista e lesbico autogestito inizia alle ore 17 tutti i martedì. Vi ricordiamo inoltre che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta sia attraverso il sito di Radio Onda Rossa, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it, che è in costruzione ed è bellissimo, andatelo a vedere. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Poi il resto non serve più. Vi ricordiamo però che potete e volete e dovete venire venerdì prossimo. Dove, Rosina, glielo vuoi dire? A San Francesco di Sales 1B, al Chesbilea, a partire dalle 21. Venite, perché appunto staremo insieme ad Elena Rossi e ad Angela Soldani, ci divertiremo, chiacchiereremo, berremo. Voi, io sono a dieta purtroppo, quindi non posso bere, però insomma, ecco, cogliamo questa occasione per stare insieme fra donne lesbiche e appunto per partecipare ad uno spettacolo importante che appunto parla di noi e delle nostre vite. Oh, naturalmente se vogliono venire le donne eterosessuali possono, non è che le cacciamo, anzi naturalmente sono, no, non chiediamo, sono, come ben, tu sai. Sono ben accette, non chiediamo nessun pedigree. Certamente, pedigree. Perché una donna eterosessuale che passa le lesbiche è una donna sottratta al nemico. Esatto, e poi dentro ogni donna c'è una lesbica, noi lo sappiamo. Profondamente nascosta, non dirò il seguito perché siamo in radio, non si può. Ok, allora a questo punto ringraziamo chiunque ci abbia ascoltato, anche se non hanno mandato messaggini, ma se non abbiamo detto il numero non fa niente, vabbè questa volta non fa niente. E ringraziamo ancora Elena, assolutamente, che è stata sì, assolutamente veramente sì, grande. La sua disponibilità, l'aspettiamo con ansia venerdì, così come aspettiamo tutte le donne. E allora ciao e alla prossima. E alla prossima. Buonasera, state per buone. I get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. A cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Believe.